Odissea 2011, in viaggio verso il futuro, di Maurizio Melis. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Eccole qui, le avete sentite, sono le parole della sigla della più famosa serie televisiva di fantascienza di tutti i tempi, Star Trek, anno 1966, dove nessuno è mai giunto prima, ed è lì che cercheremo di portarvi stasera. Benvenuti a Odissea 2011, un benvenuto anche al nostro ospite Andrea Bernagozzi, che torna a trovarci. Ciao Andrea! Ciao, grazie per avermi invitato di nuovo. Va bene, io ti presento, anzi ti ripresento subito, ma prima rispondi a una domanda. Fin dove possiamo dire che è arrivato l'uomo, o anche solo qualcosa che sia stato costruito dagli esseri umani? Per quanto riguarda viaggiare nello spazio con gli astronauti, siamo arrivati fin sulla Luna, che è a 400.000 chilometri di distanza da noi. Invece le sonde spaziali più lontane sono le Voyager 1 e le Voyager 2, che sono due sonde statunitensi lanciate negli anni 70 e che hanno attraversato il Sistema Solare. Adesso si trovano la Voyager 1 a circa 17 miliardi e mezzo di chilometri da noi e la Voyager 2 un po' più vicina, solo 14 miliardi di chilometri da noi. Allora, Andrea Bernagozzi è ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma della Val d'Aosta, è anche divulgatore scientifico e appassionato di fantascienza, e questa sera ci aiuterà a ragionare su un tema che è di grande fascino: la possibilità di viaggiare più veloci della luce, quindi insomma di esplorare altre stelle. Andrea, c'è un pensiero che mi ha sempre colpito. Se tu prendi una torcia, sai che di notte si vede bene il fascio luminoso, la punti sulla Luna e puoi star certo che qualche fotone, parliamo delle particelle che compongono il fascio di luce, poco più di un secondo dopo aver lasciato la tua mano tocca la superficie della Luna. Eppure se parliamo di raggiungere altre stelle, la velocità della luce non è granché, e anche il percorso fatto dalle sonde Voyager sembra veramente poca cosa. Come è noto, la luce corre a una velocità folle, i famosi 300.000 km al secondo, che tradotti in chilometri all'ora fanno circa un miliardo di chilometri all'ora. Eppure le distanze fra gli astri sono gigantesche. Sì, sono proprio distanze siderali, è il caso di dirlo, no? È per questo che si dice proprio distanze astronomiche. Facciamo un classico esempio: il Sistema Solare è compresso dentro un campo da calcio, quindi se il Sole si trova in una porta e Plutone, il pianeta nano che segna per tradizione i confini del Sistema Solare, nell'altra porta, ebbene la stella a noi più vicina si troverebbe a essere a oltre 600 km di distanza, cioè a mezza Italia di distanza da quel campo da calcio che è il Sistema Solare. E la stessa luce quindi impiega anni a percorrere la distanza che separa il Sole da questa stella. Ecco, insomma, nonostante queste distanze immense, la fantascienza ci ha abituato a portarci su altre stelle e su altri pianeti, e il problema viene risolto così, in modo abbastanza semplice, come per esempio fa George Lucas nel suo Guerre Stellari del 1977. Ascoltate. Comincia il divertimento. Quanto ci vuole per fare il salto nell'iperspazio? Ancora qualche momento per avere le coordinate della nave computer. Qualche momento? La velocità con cui si avvicina? Viaggiare nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti da un aeroplano. Senza i dati esatti potremmo volare attraverso una stella o avvicinarci troppo a una supernova. E il vostro viaggio finirebbe prima di cominciare. Cos'è quella spia? Stiamo perdendo il deflettore. Andate dentro e legatevi. Io farò il salto a velocità luce. Capito Andrea, basta fare un salto dell'iperspazio, no? Insomma, se la velocità della luce non è sufficiente, basta andare più forte. E ovviamente basta andare più forte se si ha a disposizione questo iperspazio, cioè si salta in un altro spazio rispetto al nostro, e lì chissà che regole ci sono. Però questo iperspazio, che è uno spazio altro nostro, non sappiamo neanche se esiste. E per quanto riguarda lo spazio nostro, sappiamo che deve rispettare le leggi della fisica come sono state scoperte e individuate dagli studiosi nel corso dei loro anni di studio. Fra tutti, il più importante di questi studiosi è ovviamente Einstein, con la sua famosissima teoria della relatività. Ed è proprio lì, nella teoria della relatività, che si comprende l'importanza di questa velocità della luce. E in particolare deriva proprio il fatto che noi, esseri umani, questa velocità della luce non possiamo neanche raggiungerla. Insomma, c'è una sorta di limite di velocità universale, no? Come se ci fossero tanti cartelli un po' in giro che impediscono di andare più veloci. Ma perché, ci chiediamo, non si può superare la velocità della luce? Che cosa succede quando ci avviciniamo a questi fatidici 300.000 km al secondo? È un numero che bisogna proprio imparare, questo qui. Lo abbiamo chiesto a Stefano Liberati, astrofisico e specialista di buchi neri alla Sissa di Trieste. Ascoltiamo. Quello che si vede nelle trasformazioni della relatività stretta è che vi è una velocità limite, una velocità avvicinandosi alla quale prima di tutto si osservano dei fenomeni a sé strani come una contrazione delle lunghezze e una dilatazione delle misure dei tempi. Cioè, il punto cruciale ad esempio sulla dilatazione dei tempi è che il tempo che noi misuriamo con il nostro orologio viene visto da un osservatore che è in moto relativo rispetto a noi a una velocità vicina a quella della luce come un tempo molto più lungo e una differenza simile nella percezione delle lunghezze relative, cioè quello che è per un metro per noi e meno di un metro per l'altro osservatore, ma in aggiunta a questo si può vedere che la massa dei corpi comincia a dipendere in modo sensibile, importante, dalla loro velocità e sostanzialmente accelerare ulteriormente questi corpi al fine di incrementarne la velocità comincia a costare un ammontare di energia sempre maggiore. Quindi di fatto questo pone un limite fisico alla possibilità di accelerare corpi oltre questa velocità limite e questa velocità limite sostanzialmente è la velocità della luce. Dunque Andrea, aiutaci un po' a capire meglio quello che abbiamo sentito. Abbiamo capito che succedono un sacco di stranezze a bordo di una nave che viaggia a velocità prossima a quella della luce, gli oggetti e anche tutte proprio le distanze percepite si accorciano, diventiamo proprio più corti e anche il tempo rallenta, è una cosa del genere, vero? All'incirca sì. Certo ci sono delle conseguenze interessanti da questo punto di vista, per esempio il tempo di questo viaggiatore che sta viaggiando in questa fantomatica astronave è diverso dal tempo della famiglia che lui ha lasciato a casa e quindi quando lui smette di fare questo viaggio, se per lui sono passate poche ore, invece per la sua famiglia sono passati anni, secoli e quindi questo vuol dire che viaggiare alla velocità della luce, anche se fosse fisicamente possibile, significherebbe dal punto di vista umano partire dicendo addio al mondo che si conosce. Ecco, insomma Andrea, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proprio rinunciare a fondare una società, una civiltà, anzi, che viaggia tra le stelle? Non possiamo farci nulla? Forse no, e la speranza viene sempre da Einstein e dalla sua teoria della relatività, quella che ha fatto dopo la teoria della relatività ristretta, che si chiama relatività generale. Ok, che ci offre una specie di scappatoia, praticamente. Ce ne parla, di questa relatività generale, Stefano Liberati. Ascoltiamo. La relatività speciale è stata una grandissima rivoluzione perché ha sostanzialmente rimpiazzato lo spazio e il tempo separati e assoluti di Newton, cioè un contenitore nel quale la fisica avviene, con il concetto di spazio-tempo, un concetto dove lo spazio e il tempo sono fusi in modo inestricabile. Ora, la relatività generale ha fatto un passo avanti rispetto a questo, si è passato dall'idea di uno spazio piatto e semplice, omogeneo e disotropo, a uno spazio-tempo che può essere curvo, che si può deformare, che può subire trasformazioni. Immaginate che, ad esempio, una stella come il nostro Sole sia una specie di palla da bowling che uno appoggia su un tappeto elastico. Questo tappeto elastico viene curvato da questa massa e, ad esempio, se noi mandiamo delle biglie, delle particelle contro questa massa che curva il tappeto elastico, queste non seguiranno una linea retta, seguiranno la linea più breve su quella superficie curva, così ad esempio la luce o altre particelle quando si muovono in prossimità del Sole sono costrette a curvare seguendo la curvatura dello spazio-tempo. Questo è stato uno dei primi test della relatività generale. Andrea Bernagozzi, perché il fatto che lo spazio sia una sorta di materiale, di substrato elastico che si può stirare, accorciare eccetera eccetera, ci dovrebbe venire in aiuto per viaggiare più veloci della luce? Perché ci permette, grazie alla teoria della relatività generale di Einstein, di immaginare, almeno a livello teorico, una nuova maniera di viaggiare. Una maniera di viaggiare in cui, oltre a viaggiare noi a una certa velocità, agiamo anche sullo spazio e sul tempo intorno a noi. Modifichiamo lo spazio e il tempo. E quindi si modifica un po' il percorso che vogliamo fare, si modifica un po' il tempo che impiegheremo a fare quel percorso. E quindi forse si viaggia di fatto più velocemente di quanto si possa fare viaggiando alla velocità della luce. Odissea 2011. In viaggio verso il futuro. Bentornati a Odissea 2011, Maurizio Melis in studio, Andrea Bernagozzi dall'altra parte della linea del telefono. Parliamo di viaggiare tra le stelle e abbiamo capito che per farlo bisogna ingannare la velocità della luce, che come ha scoperto Einstein è una sorta di limite di velocità universale. E come si fa? Sempre sfruttando una scoperta di Einstein, cioè il fatto che lo spazio è una specie di plastilina che può essere plasmata in modo opportuno così da rendere superabili le distanze. C'è un film molto noto, Contact, un film del 1997 diretto da Robert Zemeckis ed è basato sull'omonimo romanzo di Carl Sagan che sviluppa una prima possibile soluzione. Ascoltiamo. Ehi, a controllo! Ehi, a controllo! Mi ricevete? Sto tentando di continuare a registrare. Sto attraversando una specie di tunnel. Una stella. Devo essere passata attraverso un tunnel spazio-temporale. Andrea Bernagozzi, che cos'è un wormhole? Che cos'è questa sorta di metropolitana spaziale che ci presenta Contact? Beh, se vogliamo fare un viaggio nello spazio e come abbiamo capito nel cosmo bisogna attraversare una montagna di spazio e per farlo impieghiamo una montagna di tempo, allora esattamente come si fa con le montagne si può scavare un tunnel, cioè una scorciatoia attraverso lo spazio-tempo. Il termine wormhole letteralmente vuol dire buca di verme, che in italiano suona molto male, in realtà è il cunicolo del tarlo, che come appunto fa un tarlo attraversando un mobile mangiando il legno, ci permette di attraversare la sostanza dello spazio-tempo. Risultato, invece di fare un lungo percorso dal nostro punto di partenza alla destinazione, tagliamo con una scorciatoia. Ovviamente questo implica che dobbiamo trovare i metodi per generare questi tunnel spazio-temporali. La teoria della relatività generale li prevede. Insomma, Andrea, ci stai dicendo che forse c'è un modo per ingannare la velocità della luce e sentiamo che cosa ci dice a tal proposito il nostro fisico Stefano Liberati. Ascoltiamo. Se noi prendiamo la teoria della relatività generale di Einstein così com'è, è ben noto che descrive come possibili realtà degli spazio-tempi che hanno la possibilità di prevedere i viaggi più veloci della luce. Ci sono i cosiddetti warp drive, il nome che è stato mutuato dalla fantascienza, che sono come delle bolle al cui interno lo spazio è piatto, ma che questa bolla si muove a una velocità arbitraria in uno spazio-tempo senza violare niente nella relatività generale. E ci sono altre strutture come i wormhole, per qualcuno che avrà visto film di fantascienza come Contact, ad esempio, dovrebbero essere concetti familiari, come se fossero scorciatoie nello spazio-tempo, dovute proprio al fatto che lo spazio-tempo è come se fosse una plastilina, come se fosse una cosa plastica che può essere deformata dal suo contenuto di materia e energia. Però la relatività generale permette queste strutture, ma lo fa a un costo. Il costo che cos'è? Che il contenuto di materia e energia di solito per avere queste strutture è un contenuto che spesso si definisce come esotico. Che vuol dire esotico? Vuol dire che comporta di solito la presenza di grandi quantità, per avere oggetti macroscopici, di energia negativa. Ora, questa non è che sia una cosa impossibile da ottenere in natura in piccolissime quantità, in alcuni effetti quantistici, però ovviamente l'idea di avere masse macroscopiche di questi fenomeni quantistici addensate in strutture per poter generare, che ne so, un wormhole traversabile per esseri umani è abbastanza inconcepibile al momento. Dunque, Andrea, tu ci hai già parlato dei wormhole, di che cosa sono, vi ha accennato anche Liberati, che però ha accennato anche un'altra cosa, il warp drive, cioè motore a curvatura, potremmo dire così, che è un'ipotetica tecnologia che deriva il proprio nome direttamente dalla fantascienza e che è il sistema con cui viaggiano i protagonisti, ancora una volta, di Star Trek. Ascoltate. Capitano, superiamo curvatura 10. Qual è la velocità? È fuori scala, signore. Invertire i motori. Capitano, nessuno ha mai invertito i motori a questa velocità. Perché nessuno è mai andato a questa velocità. Inverta i motori. Arresto totale. Arresto totale effettuato. Posizione. Signore, dai risultati di questi calcoli non solo siamo usciti dalla nostra galassia, ma ne abbiamo attraversate altre due e siamo finiti ai limiti del triangolo. Non è possibile. Dada, che distanza abbiamo coperto? 2.700.000 anni luce, signore. Mi rifiuto di crederlo. Eppure è così. Il confronto dei dati ne conferma l'assoluta esattezza. E ho calcolato che a massima velocità curvatura ci vorranno oltre 300 anni, signore, per tornare indietro. Avete ascoltato uno stralcio preso da un episodio di Star Trek Next Generation, quindi la seconda serie, e si intitolava Dove nessuno è mai giunto prima. Direi molto in tema con questa puntata. Andrea, proviamo a spiegare come funziona questo misterioso warp drive. Abbiamo prima detto che per Einstein e la teoria della relatività ci dice che la velocità della luce è un limite invalicabile, e questo resta valido, però la velocità della luce è un limite per noi che ci muoviamo nello spazio-tempo, ma non è un limite, per esempio, per il muoversi dello spazio-tempo stesso. La velocità di curvatura in che cosa consiste? In un'ipotetica idea in cui un'astronave riesce a tirare a sé lo spazio-tempo che ha davanti e buttarselo alle spalle. In questo modo l'astronave va piano, quindi non viola il limite della velocità della luce di Einstein, ma trascina lo spazio che ha davanti a sé e se lo butta dietro. In questa maniera ci si avvicina alla propria destinazione. È un po' come quando si sta camminando su un lungo tappeto, diciamo. Invece di camminare velocemente, uno può immaginare di arricciare il tappeto davanti a sé, fare un piccolo passo, superare questo groviglio, diciamo, di tappeto, e poi ridistendersi il tappeto alle spalle. Con un piccolo passo uno può fare molti metri in questo modo. Esattamente, ovviamente bisogna stare attenti a non inciampare negli arricciamenti, che è un po' quello che è capitato nel sonoro di Star Trek che abbiamo sentito, dove appunto perdono il controllo della velocità di curvatura e si perdono nello spazio. Bene, Andrea, tu dici si può inciampare, ed è una possibilità che ci spiega proprio Stefano Liberati, che ha contribuito a questa branca degli studi veramente per pochi, ma ci sono persone che stanno davvero dedicando del tempo a cercare di capire se queste tecnologie saranno mai un giorno realizzabili, e saltano appunto fuori degli ostacoli anche un po' imprevisti. Ascoltiamo ancora una volta Stefano Liberati. Per quanto riguarda i warp drive, ad esempio si è scoperto una cosa molto interessante. Proprio un gruppo qui in FIF, il nostro gruppo, ha scoperto che se uno prende un warp drive, una di queste bolle che permettono di viaggiare più veloce della luce, e uno fa un calcolo che includa effetti della meccanica quantistica, si accorge che questa bolla diventa instabile, cioè sviluppa al suo interno un enorme calore, un'enorme energia che la rende sostanzialmente instabile, e questo succede solo se supera la velocità della luce. Quindi la conclusione qual è? La relatività generale ha in sé la possibilità di avere spazio-tempi che prevedono viaggi più veloci della luce. In generale si crede che ci siano dei meccanismi di protezione che però hanno bisogno, per essere scoperti, di tenere in conto anche degli effetti della meccanica quantistica. Lo sposalizio tra relatività generale e meccanica quantistica non è completo, ma i risultati preliminari che abbiamo ci sembrano indicare che questo è quello che accade, cioè che questi oggetti sono instabili e che quindi alla fine potrebbe esserci un limite fisico, non di costruttivo, ingegneristico, alla possibilità di viaggiare più veloce della luce. Insomma, Andrea, è un po' una delusione forse, però intanto si è scoperto che il motore a curvatura di Star Trek farebbe esplodere l'astronave. Quanto ai cunicoli spazio-temporali, non sappiamo se essi possano essere stabili oppure meno. Insomma, viene fuori che potrebbe esserci una sorta di censura cosmica sul viaggio più veloce della luce, se oltre alla relatività consideriamo anche questa meccanica quantistica, che è un altro campo di studio molto complicato. Sì, sembra proprio che l'universo non ci voglia far viaggiare più veloci della luce, anche perché, per esempio, se uno viaggia più veloce della luce si corre il rischio di cadere in un certo tipo di situazioni imbarazzanti, chiamati paradossi. Uno, per esempio, potrebbe arrivare prima addirittura di essere partito, con tutta una serie di violazioni di fenomeni come per esempio il principio di causa ed effetto. Ebbene, forse proprio esistono delle leggi di natura che per impedire che sorgano questi paradossi impediscono a noi di viaggiare fra le stelle. Eh sì, e qui entrano tutta una serie di considerazioni, le macchine del tempo è qualcosa di cui tra l'altro parleremo prima o poi, ma il tempo in questo momento di farlo non ce l'abbiamo. Intanto ti saluto, Andrea Bernagozzi. Ciao, grazie per avermi invitato di nuovo. Grazie a te di essere stato con noi, appuntamento a settimana prossima.